Lascia stare l'incosciente ostinazione di chi non ha nessun'altra soluzione. Spegni la TV, lo vedi, non funziona più. Hai dentro troppa confusione. Lascia stare la tua bella perfezione. Non cambi idea, lasciala andare per favore. Cosa te ne fai? Lo vedi, non ti serve più. Ha inizio la rivoluzione. Mentre tu decidi tutto, io ti aspetto. Catturare un'occasione. Prendila com'è, chiudi la porta e vieni via. Hai ancora troppo da vedere per non scappare. Mentre tu decidi tutto, io ti aspetto. Di parole.